283. Uccelli in salmì. Cuoceteli non del tutto, arrosto allo spiedo, conditi con sale e olio. Dopo levati, se sono uccelli piccoli o tordi, lasciateli interi. Se sono grossi, tagliateli in quattro parti e levate loro tutte le teste che pesterete in un mortaio insieme con qualche uccellino pure arrostito o con qualche ritaglio di uccelli grossi. Mettete una cazzarolina al fuoco con un battuto composto di burro, qualche pezzetto di prosciutto, sugo di carne, oppure brodo, madera o marsala nella quantità all'incirca del brodo, uno scalogno trinciato, una coccola o due di ginepro, se sono tordi, o una foglia d'alloro, se sono uccelli di altra specie. Condite con sale e pepe, e quando questo intingolo avrà bollito mezz'ora, passatelo dallo staccio e collocatevi gli uccelli arrostiti. Fateli bollire fino a cottura completa e mandateli in tavola con fettine di pane arrostito sotto.